24 mattino. Buongiorno Luca Telese, siamo tornati in onda, si sta avvicinando il momento del gattone, le vostre chiamate all'800 24 00 24, tanti i temi di cui discutere oggi, alcuni sms che si erano accumulati, il primo, quanta pubblicità, ma meno male, ci paga lo stipendio, non siamo finanziati da nessuno, siamo una radio commerciale che svolge un servizio pubblico. Il secondo, state dando la morte di Tompetti come una notizia certa, non è vero, e purtroppo invece sì, è accaduto, le agenzie battono da circa un'ora la notizia della morte di Tompetti, ricoverato per un grave malore cardiaco. E poi una domanda di un signore che dice: ma come prendi posizione su tutto, non dici come la pensi sulla mostra dei cani e dei gatti? No, io su questo pensavo che fosse implicito, ha ragione Fini, perché siccome noi facciamo vedere addirittura dei quadri in cui c'è il supplizio degli uomini, in cui c'è la tortura, pensate solo Bosch, che cos'è? Non è che non possiamo far vedere un quadro in cui muore un cane o un gatto perché qualcuno si offende. Parità di accesso, l'arte è libera e tutti devono poter intervenire. È arrivato il gattone, Oscar Giannino! Eccoci qua, e del resto come si fa a formulare dubbi su questo? Esiste il matrimonio nella vita, che è una tortura peggiore. Cosa? Sei pazzo? Ma no, dai, era una battuta, cioè, cari ascoltatori, su. Sei diventato troppo politicamente corretto. No, no, ma mi colpisce che le spari così apposta per farmi spaventare. Concita, esatto. De Gregorio al telefono, buongiorno. Buongiorno. Sono due giorni che ci racconta in diretta cosa sta accadendo in Catalogna. Ieri una cronaca proprio quasi cinematografica della fuga del governatore che cercava il seggio per votare, con l'idea dello scambio dei telefonini per depistare la polizia. Oggi un retroscena che vorrei che raccontasse a tutti noi, ovviamente su Repubblica, in cui spiega che cosa potrebbe accadere, addirittura un cambio di maggioranza nel governo di Madrid, vero? Sì, perlomeno questo è il piano. In verità io, buongiorno Luca, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è anche Oscar Giannino qui. Ah, buongiorno Oscar. Buongiorno. No, ma puoi non salutarlo e facciamolo soffrire un pochino. No, non facciamo soffrire nessuno, potendo. Teniamoci all'inevitabile sofferenza. Allora, no, volevo dire questo, che in realtà io avevo scritto prima ancora di fare queste cronache, un pezzo iniziale in cui denunciavo il primo giorno, domenica scorsa, prima del voto, in cui denunciavo la mia e l'altrui fragilità rispetto la fragilità e disorientamento rispetto a quello che sta accadendo in Catalogna, perché la maggior parte dei catalani, questo occorre dirlo, non sono indipendentisti, e anche il voto di domenica lo dimostra, 2 milioni e rotti su 5 milioni e 3 di votanti, non è la maggioranza. Però non la pensi, Concita, che molti siano rimasti a casa perché c'erano gli scontri? No, perché è la stessa cifra che avevo votato il referendum consultivo nel 2014, ed è più o meno la stessa cifra che vota i partiti autonomisti e indipendentisti, sì, da molti anni a questa parte. Sono intorno a 2 milioni, 2 milioni e 2. Naturalmente sono, come dire, no, il voto di domenica è stato un voto eroico perché veniva impedito di votare, quindi dal punto di vista del scenografico era molto impressionante, no? E d'altra parte la violenza è stata sotto gli occhi di tutti. Però quello che volevo dire al principio, ho denunciato il fatto che la maggior parte delle persone non sa dove stanno andando a parare, cosa sta succedendo, qual è il vero piano, qual è l'agenda. E allora nei due giorni in cui ho potuto scrivere delle cronache, il primo effettivamente sono stata con il presidente Puigdemont tutto il giorno per vedere la storia dal suo punto di vista e per capire se lui, certo, ha chiaro il piano, perché poi Puigdemont, ex sindaco di Girona, una piccola città che sta, sì, tu scrivi a Barcellona, come se fosse la Roma, no? Esatto. Sì, cioè in un posto, è come se tutta questa cosa la stesse guidando un amministratore onesto e bravo, ma che faceva il pubblicista di un giornale locale nella prima metà della sua vita, che si è trovato Simon Bolivar suo malgrado, no? Conservatore, cattolico, una destra pacifista. La Catalogna è profondamente, radicalmente cresciuta al pacifismo, mentre è chiaro che la destra di Madrid sono due destre, no? La destra di Rajoy e la destra di Puigdemont. La destra di Rajoy è una destra che ha radici nel falangismo statalista e centralista, per semplificare. Statalista e centralista, però sì, insomma, da una parte c'è un esercizio tra l'altro della violenza e dall'altra no, perché fa anche molta impressione la capacità di non reagire, no? Noi che abbiamo avuto tanti scontri di piazza, Napoli, Genova, ma sempre la capacità di non reagire alla violenza che hanno mostrato i catalani domenica è stata impressionante. Detto tutto questo, da una parte c'è un uso illegale della forza, e che è quello di Madrid, i proiettili di gomma, dall'altra parte c'è una forzatura illegale della legge, che è quella della Catalogna, che sta tenendo un referendum e andando verso la proclamazione dell'indipendenza in bilico su una legge sospesa, perché le leggi del referendum sono state sospese dalla Corte Costituzionale, non ancora censurate, ma sospese. Allora mi domandavo, come tutti, ma dove stanno andando? A parte il carnevale che hanno messo in piedi, che tutto il mondo osserva come se fosse... Dove stanno andando? E tu, dove stanno andando? Però sostieni che potrebbe esserci un'intesa fra indipendentisti e Podemos, e allora, per, con il PSOE far cadere Rajoy? Esiste questa altra maggioranza? Cioè la vera agenda segreta politica non è proclamare unilateralmente la Repubblica. Come si fa a proclamare la Repubblica dentro una monarchia? Cioè è chiaro che bisogna riscrivere la Costituzione dello Stato, no? Spagna è una monarchia, come proclami la Repubblica Catalana? Allora qual è la vera agenda segreta? E ieri, parlando con alcuni dei consiglieri più stretti dei protagonisti di questa vicenda, i famosi ispiratori, gli ideologi, si sarebbe detto nel Novecento, ecco, l'ideologo ancora di Convergenza è Artur Mas, l'ex presidente. Sì. L'ideologo di Ada Colau, che è in Comú Podem, cioè una costola di Podemos, è Joan Subirats, un professore di scienze politiche, molto, diciamo, con una lunghissima storia politica di militanza nella sinistra. Nella Bene. Sinistra dei movimenti. E loro mi hanno spiegato che potrebbe esserci un'intesa fra Podemos, gli indipendentisti, che si è chiusa nel manifesto di Saragozza di domenica 25 settembre, certo, per spingere il PSOE. Quindi il cardine di tutto questo è se il PSOE cambia posizione. Sì, il PSOE è già diviso, però, perché Pedro Sánchez è debolissimo, ha vinto il congresso ma governa Susana Díaz, che è la leader andalusa. Pedro Sánchez è molto debole, si trova in una posizione molto scomoda. Il leader socialista è al governo ma non c'è, è al partito ma non lo governa, ma non comanda, e quindi la lusinga per dirgli guarda, lascia questi, lascia perdere e vieni al governo con noi è potente. Bene, grazie a Concita De Gregorio, ti chiameremo in futuro se ci darai qualche altro minuto, ma il tuo racconto è molto importante oggi perché guarda un passo avanti a quello che potrebbe accadere. Buongiorno Oscar, pensi che questo, come valuti la vera notizia di oggi, che è questo messaggio dell'Europa, un colpo al cerchio, uno alla botte, cioè niente violenze, però è un affare interno spagnolo e bisogna rispettare la Costituzione? In linea col fatto che l'Europa dimostra di fronte a questo sviluppo di non essere all'altezza dei tempi. Le critiche all'Europa, come si vede, hanno un fondamento. Non sono mai stato proclive a dare all'Europa la colpa di tutto, come fanno alcuni che cercano nell'Europa l'autoassoluzione per colpe italiane. Ci sono politici che, anche se si rompe l'ascensore, dicono che è colpa dell'Europa, della Merkel. Ma in questo caso ritengo che, come evidente, un attore così importante della politica mondiale, che pretende essere così importante e che non ha niente da dire di significativo sulla contorsione in cui sono finiti i protagonisti, quelli catalani e quelli madrileni, di questa vicenda, di un membro così importante, testimonia che non è all'altezza del suo tempo. Non si può. E quindi bocciatura integrale su tutta la linea. Sia che essa dipende dal fatto che gli stati membri non vogliono entrare negli affari domestici di uno stato membro, perché altrimenti capita anche a noi. Bene, vuol dire che avete un guaio in casa. I guai si affrontano, non si esorcizzano non occupandosene, sia invece se la faccenda dipenda dal fatto di non poter prevedere regole per modificare le adesioni. I matrimoni reggono, ma per reggere bisogna avere anche regole per le buone separazioni. Però se stiamo raccontando quello che accade, a me sembra che, a prescindere da cosa pensiamo e cosa auspichiamo, la parte dominante del messaggio che l'Europa ha lanciato ieri sia il freno tirato. Cioè che da questo messaggio gli indipendentisti non traggano la certezza che un'eventuale secessione sarebbe riconosciuta da Bruxelles. No, ma questo diamolo per scontato, con le norme europee attuali non si può chi fare. Chi secede ricomincia da capo sia l'adesione all'Unione Europea che l'euroarea. Questa è un punto fermo dei trattati. Questo non si può pensare che uno innovi rispetto a quello che c'è nei trattati. Cosa diversa è, ecco, ma quindi rifiutare la che mediazione. È come se uno... Cioè, la questione è che Puigdemont aveva chiesto: intervenite, e l'Europa sparisce invece di dire sì. Se ce lo chiede anche Madrid, come ovvio, non può intervenire perché te lo chiede una parte. E il fatto di abdicare a un ruolo quando si manganella i seggi. Ecco, e questo significa davvero non essere all'altezza, perché io penso che tra Juncker e Tusk dovevano sentire il presidente di turno estone e dire: fate una consultazione rapida tra i quattro governi più importanti e tutti gli altri, ma dovete darci un mandato, perché noi ve lo stiamo chiedendo come istituzioni europee. Invece non si ha nessuna traccia di tutto questo, come se l'appello alla mediazione, che serve a tutte le parti in causa, serve a Madrid, serve a Barcellona, serve all'Europa, ecco, e quindi ha un fondamento politico, e invece è come se non ci fosse questa. Ci credi a questo scenario, che comunque riaprirebbe i giochi, cioè cade il governo Rajoy e a quel punto si può riaprire la trattativa, si riazzera tutto? Io credo che sarebbe meglio per tutte le parti se i due protagonisti, sì. Cioè io penso che da questa soluzione si esce meglio senza Rajoy in campo, ma bisogna essere chiari, la stessa cosa dovrebbe riguardare Puigdemont. Ovviamente la cosa di Puigdemont è impensabile, perché loro sono eroizzati dall'errore clamoroso di Rajoy di domenica. Certo, Rajoy ha la responsabilità fondamentale. Con Rajoy al tavolo non si va da nessuna parte. Qualcuno ha trovato severe le parole di Conchita De Gregorio sul governatore Puigdemont, però deve sapere che Conchita è di madre catalana, è nata praticamente a Barcellona, ha frequentato le scuole lì, e quindi è tutto fuorché un antipatizzante della casa catalana. No, casomai il contrario, sì, parla da persona che è da quella parte, diciamo, severa con politiche i suoi. Forti, sì, questo, sì. Oh, come ovvio, no ciascuno. No, ma siccome qualcuno dice è così da tanto tempo. Allora, ci sono ascoltatori, 800 24 00 24, però questo Pietro dalla provincia di Milano. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, molto bello anche tutto il tempo che state dedicando alla Catalogna, al referendum. Volevo Grazie. Aggiungere qualcosa, buongiorno, vado molto veloce, volevo aggiungere qualcosa all'intervento di Conchita De Gregorio, che per la prima volta da quando sto seguendo questa faccenda sui temi catalani, mia moglie è delle Isole Baleari, è di Maiorca, conosco abbastanza da 10 anni la situazione della Catalogna, intesa come regione, macro regione, quindi non solo la Catalogna vera e propria, ma anche tutta la regione, le Baleari, la comunità valenziana, eccetera. Purtroppo nel mainstream italiano è passato soprattutto il messaggio che la Catalogna è vessata, al di là del referendum che c'è stato la scorsa settimana con le prese di posizioni intollerabili da parte del governo centrale di Rajoy. Però non è proprio vero che la Catalogna è vessata. È dalla seconda metà degli anni 60, dal franchismo, che la Catalogna ha avuto infrastrutture come controricambio per la cancellazione delle identità. E la democrazia in Spagna ha investito soprattutto in infrastrutture in Catalogna, perché reputava la Catalogna la regione che più propendeva poteva per crescere. Qual è la sua idea? Cosa deve accadere adesso? Negoziare? Chiudere? Cosa deve accadere? Certo, bisogna negoziare, e ambedue, Rajoy e Puigdemont, come ha detto Conchita De Gregorio, sono delle persone completamente inaffidabili, perché i partiti indipendentisti catalani nascondono un marcio di corruzione che sta per venire a galla a gennaio, quando la banca di Andorra verrà disvelata nei suoi segreti. È una banca in cui molti mettono dei soldi, molti partiti. Questo in Spagna... Allora, grazie. Parla. Pietro di questa profezia, continua a chiamare se lo riterrai opportuno, perché credo che continueremo a lungo il racconto. Oscar, facciamo un po' di cani e gatti su alcune notizie del giorno. Ah, pubblicità incombe. Dai, già, pullula, Oscar. Ma non voglio nulla. Mattino. E allora eccoci in diretta, Oscar Giannino, Luca Telese. Oscar, l'avevo tenuta per te questa, da Repubblica e dal Messaggero. Renzi sale in cattedra alla Stanford, lezioni in inglese sull'Europa, e ha detto mentre entrava: c'è chi mi ha offerto 50 o 70 mila euro per una lezione. Hai capito? A te non te li hanno offerti, manco a me. Rosichiamo, gufi. Siamo felici per lui. No, queste però le ha rifiutate, queste qui. Invece, le ha rifiutate, quindi l'ha fatta gratis? No, ha preso meno per la Stanford, ha detto qualcuno mi ha offerto anche 70.000 euro. Vedi la libera competizione tra libere università, non come in Italia, tutti uguali. Questo, il bello è che gli italiani, i politici italiani, piace solo quando incassano però l'effetto della libera concorrenza. Ma come l'ammortizzano sta lezione da 70.000 euro? Ma perché? Cioè arrivano milioni per sentire. Ma perché sono abili a raccoglierli i fondi? Quando si fa libera competizione per la raccolta di fondi, ma anche tra università pubbliche, non sono. No, questo sì, no, ma dico, mi immagino la folla per la lezione di Renzi. Vabbè. Però a Renzi piace solo l'effetto che entra eventualmente nelle tasche. Capisci? Questo che mi stupisce molto. Io allora, volevo invece, agli assunti con Jobs Act, su, Messaggero, sì. Ipotesi 200 euro in più annui. Il governo vuole allargare il campo della decontribuzione per i giovani. Va bene, soffri, lo so che soffri. No, soffro quando leggi le cose soffri. Guarda, penso, amici, che io lo vedo il bilancio delle mance sia finito e questa roba bisogna mettere punto. Quindi a sei capo. Proprio radicalmente contrario. No, sono radicalmente contrario a questa cosa di continuare con cose che sono state 10 miliardi di euro l'anno, perché questo è purtroppo quasi il bilancio della decontribuzione, poco meno, e i cui effetti non hanno spostato le caratteristiche strutturali dell'offerta del lavoro, come si vede e come era ovvio, perché questa roba è solo un'accelerazione temporale di un'offerta di opportunità che dà alle imprese. Le imprese sono felici, ma come si vede qual è il tasso di occupazione a tempo determinato dei nuovi contratti? È 97%. È inutile girarci intorno. Invece la cosa che a me continua a colpire è la disattenzione di alcune cose fondamentali che non continuano a non funzionare. Per esempio sulla pagina dell'economia del Corriere della Sera oggi c'è una bella notiziona di quelle che ai politici frega zero: aumenta del 44% il motivo per cui donne che lavorano si dimettono perché non riescono a conciliarlo con i figli. Ecco, sono queste le dimostrazioni delle cose su cui bisogna mettere le mani in termini strutturali, non le mancette. Tra 20 anni ti regalo un anno di prepensionamento a seconda dei figli. Per un welfare che è solo per vecchi e non per giovani, bisogna intervenire con politiche attive del lavoro sulle donne in età da lavoro per rendergli possibile conciliare il carico familiare e i figli con il lavoro. Invece non lo facciamo. Ti caro. Ha colpito il video delle Iene con il deputato della Repubblica che chiede prestazioni sessuali filmato da Filippo Roma? E fra l'altro, l'altra cosa incredibile è che questa ragazza lavorava sottoretribuita mentre l'onorevole assumeva il figlio di un sottosegretario, il sottosegretario Rossi. Ma di che Rossi. Cosa tu hai, cioè, no, perché sono cose che dispiacciono. Dispiacciono, non c'è dubbio. Cioè, non è che possiamo accettare tutto e dire vabbè accade. No, un po' fa arrabbiare, perché quello dovrebbe essere il manico, il simbolo del paese, e accadono queste cose. Ma tu ancora hai queste idee? Ma non possono, io non capisco perché non si fa una legge facile. Sì. Anziché essere la schiavitù, sì, il portaborsa, i 4.000 euro li dai a chi vuoi senza nessun contratto, sì, li devi assumere come fanno tutti gli imprenditori italiani. Li devi pagare, mette nero su bianco, firmare il contratto. Fai sempre questa battaglia. E non puoi essere. Ma io prima stavo dicendo. Ma è così semplice. Stavi dicendo che il parlamentare dovrebbe essere. Cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere vincolato al rendiconto, sì, a firmare, a pagare i contributi come tutti gli imprenditori. Non è immune da nessuno dei peggiori perché tu dici hai ancora un'aspettativa più bassa. No, io di sicuro, cioè figurati, i parlamentari li osservo da quando sono giovane e quindi no. E mi dispiace se adesso si offendano, non è un giudizio generale. Io invito i signori eletti a considerare i tantissimi esempi che arrivano agli italiani in basso nei decenni e giudicate voi se potete essere convinti di aver dato. Precisazione importante di un ascoltatore animalista: vorrei sottolineare che non si tratta di quadri, ci riferiamo al pezzo che ho letto di Massimo Fini, bensì di filmati o anche di filmati dove per esempio si affrontano due pitbull su tappeti da corsa che non si raggiungono mai. e sfruttamento di animali, non arte. Che ecco, dici? Questo posso capirlo di più. Vabbè, ma non per sempre, sarà per qualche minuto, però sarà per qualche secondo. Detto tutto non questo, è che si sbranano. Detto tutto questo, ripeto. Elena. Ecco, sì, ho capito. Però attenzione, cari animalisti. Io, insomma, amo gli animali e spero che si sia capito in questi anni. non poco. Ecco, però detto tutto questo, attenti agli eccessi, questo voglio dire io. Stiamo parlando di una mostra, ecco, stiamo parlando di un significato artistico. Allora, io mi limito su questo a dire che se facciamo questioni di principio su tutto non ne usciamo più. Sergio, da Milano. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Io volevo dire una cosa relativamente alla questione catalana, no? Io sono assolutamente pro libertà della Catalogna. E mi fa abbastanza sorridere, questo che volevo dire, quando si dice che l'istanza e il referendum erano illegali, no, perché è evidente che sono illegali qualsiasi azione che sia nella direzione di un'autodeterminazione di un popolo all'interno di un tessuto statale, diciamo come quello spagnolo, che è un popolo diverso da quello spagnolo, che non si riconosce più nella Costituzione spagnola, nello Stato spagnolo. È chiaro che quindi è fuori legge, no? Qualsiasi iniziativa di autodeterminazione è fuori legge, perché chiaramente la Costituzione dice no, non è possibile, tu non ti puoi staccare. Però la domanda che ti faccio, Sergio, tu stai facendo questo sillogismo, siccome la secessione non è prevista da quella Costituzione, da altre sì, per esempio non tutti sanno che le repubbliche jugoslave si potevano secedere per la Costituzione perché lo prevedeva. Però la domanda è, quindi tu dici, allora è ovvio che questa norma debba essere superata, ma la domanda è, chi ha detto che è una maggioranza? Stiamo parlando di una minoranza di massa importante, ma una minoranza che non si è mai certificata in un voto. Motivo in più per cui allora, allora non bastava puoi farli votare, sì, non immanganellarli, esatto, e poi dire che sono una minoranza. Dai, hanno votato tre volte. Sì, ma la domanda, manganellati, e poi dice siete una minoranza. Ma tu non mi puoi schiacciare su Rajoy. Sto dicendo semplicemente, no, hai detto al che nostro erano una minoranza. Il voto di domenica non ha ma lo ha detto con anche certezza. Con Città De Gregorio, che è una simpatizzante. Ma chi se ne importa che ha detto con Città De Gregorio? Ma lo dicono tutti, lo dicono i dati elettorali. Lo dicono i dati elettorali di seggi di fronte a cui c'era la gente cacciata via e manganellata. Ragazzi, 2 milioni su 5 è una minoranza. Se faremo votare con le garanzie della libertà a Barcellona, li faremo votare in Catalogna con un'autorità internazionale, facciamo votare. Finora, in tutte le consultazioni che ci sono state, politiche, elettorali, dirette o indirette, mai le forze secessioniste hanno raggiunto la maggioranza. Allora, questa cosa vuol dire che c'è una minoranza. Fra l'altro ci sono gli articoli sulla stampa che raccontano il no della maggioranza silenziosa, che c'è, che ha dei diritti. Ma è forte. Non li fate votare, li manganellate e dite che sono una minoranza. E ci sono dei casi forte, di discriminazione, se non parli dialetto catalano, d'accordo. Se non superi l'esame, se hai un cognome castigliano, se sono ci le sono i quartieri figli del manganello. Immigrati con che sono cui incredibile lì. A dirsi pezzi di sinistra che difendono gli stati nazionali si medesimano il manganello. Ma tu vuoi appiattirmi sul manganello? Non ci riuscirai. Voglio appiattirti sulla difesa del diritto di quelli che sono lì e falle che votare. Sono maggioranza. Falle votare. Bene, facciamoli votare. Sergio, vuoi salutarci? Vuoi dire qualcosa? Sì, guarda dire che cosa hai innescato. Cioè, hai scatenato la belva. Ma è giusto, è sacrosanto. Cioè, esiste comunque un principio morale, che è quello della libertà dei popoli e la libertà di autodeterminazione. Sì, quando sono maggioranza. Deve essere il fondamento del principio democratico. Allora, è assurdo manganellare la gente, cioè qui viene fuori veramente il substrato falangista da cui viene. Certo, Mariano che Rajoy. È assurdo, però come ci si è arrivati? Allora, ci si è arrivati negando, scusate, ogni trattativa, ma io voglio con capire la Catalogna. Una cosa. Ma lo difendi con questo proprio principio, questo, Oscar, gli abitanti della Val di Susa, che a stragrande maggioranza si opponevano alla TAV e sono stati manganellati, tu li difendi? Senti, li in difendi, opera pubblica sei diventato Notav, abbiamo Giannino Notav, il paradosso, il paradosso, sei privo di logica, ma è possibile che un ragazzo bravo come Giannino te si rifugia nel paradosso? Ti ringrazio per come il ragazzo, peggior sofista, ragazzo. Vuol dire non avere una logica, quindi usare i paradossi, non c'entra Notav, un'opera pubblica e le competenze sulle infrastrutture col diritto naturale all'autodeterminazione. Vedi a cosa ti porta a difendere Rajoy, diventi uno senza punti d'appoggio, mi scivoli, è come se fossi su un ghiaccio, stai partendo. È partito. Mentre, sono contento che sei diventato Ascatasuna. Giannino, Oscar Ascatasuna. Non ci provare Paolo, nemmeno. Dalla provincia di Brescia. Pronto? Oscar Ascatasuna, ma ti vai, ascolto. Vai, vai. Pronto? Sì, prego Paolo. Pronto, ecco, volevo anche intervenire sul discorso della Catalogna. Con due considerazioni. Uno, non si possono usare i manganelli contro le matite. Punto. Perché queste persone andavano a votare, erano una minoranza. Bella immagine. Stai citando La notte delle matite spezzate? Un grande classico. Ma sì, sì, qui diciamo, siamo ascoltatori di livello. Ecco. È un club. E poi la seconda cosa, la seconda considerazione, qua manca un attore principale in questa vicenda, perché seppure è una minoranza quella che ha dichiarato l'indipendenza, è un pericolo per la democrazia della Spagna, e la Spagna nella democrazia ci è andata per volontà del re ed è stata salvata nei primi anni 80 dal re. Bravo. Quindi deve intervenire Felipe in qualche modo, perché i catalani sono ancora sudditi e cittadini a cui lui deve tenere, è deve portare le scuse e deve essere lui garante, perché altrimenti la situazione qua non si sblocca. Mi auguro che faccia spostare Rajoy, gli dice gli dica di magari fare un passo da parte, magari, e anche ai catalani dica prendete un uomo che sappia, che sappia dialogare e portare avanti il tutto e fare come si è sempre fatto, cioè dare più autonomia, dare più concessioni, ma sempre nell'ambito di una unità istituzionale, altrimenti è un pericolo per l'Europa. E qua mi viene da citare Kohl, che tipo un 6-7 anni fa, vedendo la situazione dell'Europa, questa Europa dove manca veramente mancano un po' di leader, diceva che lui vedeva in lontananza venti di guerra. Io, insomma, è una profezia che vedo, non dico si realizzerà, ma no, però ma gli elementi reali ci sono. Essere. Grazie Paolo per questo intervento. No, una voce di grande Vedi? Saggezza. E la domanda è: ma perché i giornali italiani non si chiedono, alcuni lo fanno, ma pochi, dove è finito? Cioè, è incredibile che c'è, ecco, un garante della Costituzione e non ha detto una parola. Sollevi una questione, scusa, importante. Uno divertentissimo prima che scorra via. Telese, il comunista difensore del diritto, Giannino, il liberale dei centri sociali, si è ribaltato il mondo. No, questo beh, ci sfotte tutti e due. Ma certo, perché mentre tu riduci ci sono tutto i tuoi a paradosso. Fan. Senti la sobrietà dei fan del liberale Giannino. Forza Oscar, massacralo. Vabbè, ma vedi, questa però è, l'informazione questa, che si riduce a circo. I miei tutti colti, intelligenti, pochi. Invece i tuoi mena. Vuoi fare circo? Io temo che sarà la mia ultima puntata, perché io non ci voglio andare nel circo quotidiano. L'informazione è un'altra cosa. Oh mamma mia. Detto questo, no, attenzione, hai colto un punto. Secondo me hai sollevato un punto, non colto, che è importante. Perché l'informazione italiana è così appiattita sul day by day, sugli sviluppi, per esempio? Cioè, la questione che fa Felipe, alla luce del ruolo che il padre ebbe ai tempi di Tejero, sapendo che in Catalogna la monarchia è in minoranza, ma sapendo anche che ha un ruolo fondamentale di fronte al quale non è che Rajoy sia un leader di partito così forte, dotato di una maggioranza così granitica che possa fregarsene di un intervento riservato e risoluto della corona, ecco, questa sarebbe una cosa su cui mi sarei aspettato anch'io fior di riflessioni. Invece quasi può niente. Darsi che mediti la mossa, in questo il retroscena che ci ha raccontato Concita sarebbe interessante, da garante proprio estremo, come accade per l'Italia, qualora ci fosse una crisi. Allora, qualora cadesse quel governo, può dare. Bene, allora bisogna sperare che ci sia uno sviluppo politico, però attenzione, perché non sembra unilaterale, perché ci bisogna sbloccare la partita su due parti, se vogliamo fare l'osservatorio adesso seri. Quindi uno sviluppo politico che riguardi Rajoy, un'iniziativa a quel punto che lanci le basi di una possibile coordinata per entrambe le parti di una mediazione, e che chieda un mediatore ai catalani che non sia Puigdemont, per esempio. Nuova legge elettorale in Spagna, il manganellum, questa non è male. E la domanda, questa è per Oscar, perché io veramente me lo chiedo, ma se la Catalogna si separa dalla Spagna, chi paga i conti? Cioè, perché è un riferimento alla cosa che abbiamo letto su tanti giornali, che i bond, diciamo, di Stato spagnoli hanno garantito il debito catalano, hanno che sarebbe al 120%. Catalano, ma come di tutti, cioè questi conti incrociati. All'atto, questo è il punto delicato di ogni ipotesi di secessione, perché all'atto della secessione bisogna convenire su una modalità che riguarda due cose. Chi si assume quale quota parte del debito preesistente, che è ancora di competenza degli stati nazionali, come sappiamo tutti, non è in capo, certo, all'Europa. Se c'è la secessione, te la devi assumere te. Ti ho detto in quale parte, significa certo. in una parte che è data da che? Dal peso del rispettivo PIL? Oppure, certo. No, non è detto. No, dico, penso che il calcolo sarebbe PIL, quello. Attenzione, tante volte quando si è passato in passato nel Nord, cosa succede se la Lega Nord fa succedere al Nord? La Lega arriva al punto di dire... non solo in ragione proporzionale a quanto è il nostro PIL, ma anche una quota aggiuntiva, perché prima eravamo solidali. È un sarebbe un meccanismo tutto da discutere, capito? Quella diventerebbe la grande partita. Quella come si divide la torta uno del dei debito. Pezzi, certo, delle partite. Oltretutto, però, nel breve significa per 2 o 3 anni, mettiamo che la Catalogna esce, un qualunque pezzo di euroarea esce dal suo stato, non è che resta con l'euro l'indomani, deve ritrattare tutto, quindi nel frattempo lui assumerebbe una quota dell'ex debito pubblico spagnolo, quindi sarebbe un colpo e micidiale. Si troverebbe a dover ridenominare il suo, o trattare con l'Europa il debito che emetterebbe lui. Non è scontato che lo emette in euro, capisci? Ecco, andrebbe nei guai forti, ma il rischio di una secessione, credo che con la secessione possa esserci solo se forte. Puoi rimanere nell'area euro, ma sennò bisognerebbe stabilirlo proprio, perché con le regole attuali del trattato europeo non ripeto, devi ritrattare tutto da capo, quindi non è una cosa né facile né scontata, è per questo che la mediazione deve avvenire non sul quadro abbiamo già proclamato una secessione. Se proclama una secessione nei guai nel giro di un mese, nessuno che li aiuta. Ho letto sulla stampa questa bella inchiesta stamattina sulle bici elettriche cinesi, su cui i produttori italiani vogliono il dazio perché dicono che sono di pessima qualità e non ho motivo di dubitare. Ma possiamo ancora difenderci coi dazi? No, dai, non possiamo difenderci coi dazi. Cari produttori italiani, perché non l'avete fatta voi l'offerta per bike sharing di massa con queste caratteristiche? Le vostre sono migliori, costano meno, sono di materiali più ecocompatibili? Perfetto, perché non l'avete fatta la proposta? Su, è così, cioè la difesa dei confini autarchici, la patria. Mi dispiace, Giorgia Meloni dice difendo lo Stato nazionale perché è l'unica trincea contro il mondialismo. Giorgia, su, ragioniamo un secondo meglio e davvero coi dazi pensi di difendere l'Italia? Coi dazi, per un paese che ha nel traino nel suo export, cioè i rapporti commerciali che devono essere aperti, perché noi abbiamo tutto l'interesse a che siano aperti. Se ci chiudiamo le porte da soli in faccia, difendiamo l'Italia? Secondo me no, ecco, questa è la mia opinione. José da Vicenza, da Venezia, è un ascoltatore spagnolo, vedi come siamo Europa. Prego, José, prego. Sì, buongiorno. Sto sentendo in questi giorni tutto quello che si dice in Italia rispetto a quello che accade in Catalogna e sono un po' indignato perché anzitutto quello che si vede a livello internazionale è una rappresentazione che è quella che proprio vuole far vedere il governo catalano. In realtà qua si è commesso un atto illegale e la polizia è vero che è intervenuto, ma è intervenuto per la inoperanza della polizia catalana. José, però voglio dire, questo noi stiamo raccontando almeno con due voci qui a Radio 24, due diversi punti di vista, e questa ricchezza la diamo. Anche Oscar ha una visione complessa e non banalizzante. Chi mai ha detto che non fosse illegale il referendum? Cioè, è chiaro che era illegale. Che secondo la Costituzione la è illegale. La polizia che manca le... picchia ai manifestanti. Questo è falso. La polizia si apre passo prima per cumplire l'ordine del giudice ante una mole che è stata messa là in maniera orchestrata per il governo catalano, o per uscire. Si vedono le scene dove la polizia non ha via d'uscita, è piena di gente intorno. Cosa deve fare questa polizia secondo voi? Cioè lei la polizia stava sequestrando le urne e per uscire ha dovuto rimuovere le persone che erano sdraiate sulle scale. C'è stata tutta la manifestazione in plaza, che polizia è intervenuto? I catalani non sono oppressi. La polizia nella sua ordine del giudice è andato là per intervenire. Perché la polizia catalana non è intervenuta. Se la polizia catalana interveniva... Grazie. Sta incombendo il tempo, ma continua a seguirci. L'ultima parola aspetta al gattone. Il gattone, fa notare, è andata in crisi la compagnia Monarch in Gran Bretagna, centinaia di migliaia di passeggeri. La crisi, il governo si è occupato di prendere degli aerei per riprendere i passeggeri. Non gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di mettere mano al portafoglio per fare un prestito ponte alla compagnia. Vogliamo capire come va il mondo, cari sostenitori dell'Alitalia, con ogni vento, sole, nord-est, pur ridargli i soldi di Giannino e di Luca Telese. Più fallimenti per tutti. Ecco. Ciao, ci